24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, le 7:21 minuti, riparte una settimana di 24 mattino, siamo qua in diretta fino alle 9, come al solito il nostro alpino Peter Bescapè, oggi agghindato in maniera un po' strana, comunque è lì in regia e ci assisterà fino alle 9. Allora, oggi andremo e vi racconteremo la storia dei Bosco Reale in provincia di Napoli. Alle 8:20 avremo ospite il sindaco, un paese che ha un triste primato. Circa l'80% dei dipendenti comunali sotto indagine per assenteismo. E poi invece parleremo di guerre, la guerra democratica. Questo è il titolo dell'ultimo libro di Massimo Fini, intellettuale che spesso si scaglia contro gli interventi del mondo occidentale, quindi anche dell'Italia, in varie guerre negli ultimi anni. La tesi di Massimo Fini è questa: in nome di una presunta democrazia, noi occidentali andiamo a fare scempi in teatri geografici che non ci competono, non ci competerebbero. Di questo discutiamo più avanti, ora però iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. È lunedì 23 aprile e diamo intanto uno sguardo ai titoli che sono quasi tutti declinati sulle presidenziali francesi, il primo turno ieri. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre invece sulla situazione italiana: così la crisi ci ha cambiato la vita, imposte a rate, servizi low cost, meno cinema e ristoranti tra i rimedi delle famiglie. Un'interessante analisi e studio di come appunto i consumi sono cambiati per gli italiani negli ultimi anni. E poi appunto la carrellata di titoli sulle presidenziali francesi per il Corriere della Sera: Hollande in testa, Sarkozy spera ancora, Repubblica, Hollande avanti, uragano Le Pen. La Stampa, Hollande avanti, Sarkozy lo sfida. Il Giornale, sberla all'Europa di Monti, le elezioni in Francia. Per il Messaggero, Hollande vince, Sarkozy non cede. L'Unità, l'Europa può cambiare, c'è una foto di Hollande che già esulta. Il Secolo XIX, ci sono due aperture, sia Hollande avanti e vola Le Pen, ma anche non giochiamo più a Genova, quello che è successo ieri con l'incredibile protesta dei tifosi, di una sessantina di tifosi che ha tenuto sotto scacco proprio lo stadio di Marassico, i giocatori che sono stati costretti a sfilarsi la maglia, tanto che il quotidiano nazionale apre su questo ricatto ultra e c'è una foto delle contestazioni di ieri. Voglio partire però da qualche notizia un po' curiosa, un po' diversa, che trovate qua e là sui giornali. La prima è una notizia che c'è solo sul Corriere della Sera, Angela Frenda la racconta, pagina 15. Sembra tornato un clima più sereno tra i due coniugi che qualche anno fa erano diventati più famosi per la volontà di separarsi. Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Berlusconi-Lario, incontro e intesa sul divorzio. Questo è il titolo: verso la separazione consensuale con il ritorno a Macherio di Veronica. E scrive Angela Frenda: a volte anche nei divorzi più cruenti capita che qualcosa cambi, che ci si fermi un attimo prima di salire sul lampadario di cristallo e, come i coniugi Roses dell'omonimo film, precipitare sul pavimento. Probabilmente è quello che è successo a Silvio Berlusconi e Veronica Lario. E il clima non è più al vetriolo. La realtà oggi sorprende, fotografa invece una coppia che quasi dopo quasi tre anni di battaglie legali feroci è tornata a parlarsi, a vedersi. Due domeniche fa i due ex coniugi si sono visti con i tre figli della coppia Macherio, un pranzo come ai vecchi tempi, piatti preferiti, qualche risata. Insomma, poi ci sono tutti i termini della questione con Veronica Lario, che aveva lasciato la villa di Macherio, aveva rigettato l'accordo che vedeva le sue aspettative ridimensionarsi da 43 a 7 milioni di euro lordi l'anno. Solo 7 milioni di euro di assegno familiare, non si può fare. Ne aveva chiesti 43, oltre a un assegno da 300.000 euro al mese e l'attribuzione in usufrutto a vita di Villa Belvedere, la residenza di Veronica, di Macherio, e quindi dove Veronica Lario aveva vissuto per anni. Dunque non bastavano 7 milioni lordi l'anno, 300.000 euro al mese, l'attribuzione in usufrutto della Villa Macherio. Ma poi, insomma, qui c'è stato lo scontro, poi la lenta ricomposizione. Sta di fatto che pare che l'accordo ora preveda una separazione consensuale e non più dunque quella più conflittuale, più la separazione giudiziale, e il ritorno di Veronica Lario a Macherio. Se sono rose, fioriranno. La seconda notizia l'ho trovata in prima pagina del Secolo XIX e riguarda i telefonini e la città di Udine. Il sindaco di Udine, Onsel, ha deciso di fare una vera e propria, non dico crociata contro i telefonini, ma comunque il sindaco vara le zone anticellulare. Maurizio Di Lucchio, prima pagina del Secolo XIX, mette insieme un medico e un informatico che hanno a cuore la salute dei cittadini minacciata da troppe onde elettromagnetiche. Il risultato è un'idea che fa di Udine la prima città in Italia ad adottare per decreto zone cell free. Nel comune friulano è partita questa crociata, qui la chiama così proprio, contro i cellulari. Niente squilli fastidiosi, tweet compulsivi che creano disattenzioni, rischi per la salute. Questo è il singolare progetto, area in cui è proibito l'uso degli smartphone. Lo ha deciso Furio Onsel e tra ristoranti, bar, trattorie, alberghi sono già 16 locali di Udine che hanno detto sì al progetto. Qui i clienti avranno l'obbligo di tenere spento il cellulare. Insomma, è tutto nato da un consigliere comunale, Mario Canciani, pneumologo, pediatra, membro fondatore dell'associazione contro l'elettrosmog, e il sindaco ha detto va bene. Tra l'altro ha detto mi trovavo di recente a un convegno internazionale, ho visto che gli scandinavi spegnevano il cellulare a pranzo e da qui è nata l'idea. Tornata a Udine, ho coinvolto le associazioni e da lì è partito tutto. E insomma, Udine fa la guerra ai telefonini, zone self-free in città, il sindaco li vieta anche in giunta, basta squilli, basta tweet, basta onde elettromagnetiche. Così, Udine. 24 mattino. Ed eccoci qua allora alle 7:35 minuti, come detto molti quotidiani, quasi tutti aprono sulle presidenziali francesi, il primo turno che hanno visto la vittoria di François Hollande, leader dei socialisti, di fronte a Nicolas Sarkozy, 28,2% per Hollande, 27% per Sarkozy, anche se... Quindi se ci sarà il ballottaggio, ovviamente tutto si deciderà lì, anche se le vere imprese dal punto di vista elettorale che sono analizzate dai giornali sono anche il 18,6% di Marine Le Pen, quindi del Fronte Nazionale di destra, e anche il 10,9% di Mélenchon, l'estrema sinistra. Insomma, un po' di titoli su questo. L'anno in testa, exploit Marine Le Pen, titola per esempio il Corriere della Sera a pagina 2, e ci sono anche vari articoli, alcuni che ho selezionato per segnalarveli. Beh, Aldo Cazzullo, l'inviato del Corriere della Sera, racconta a pagina 3 il dopo prima sconfitta, si può dire, per il presidente Nicolas Sarkozy, che secondo molti analisti è ormai dato per spacciato. Non è proprio così, ci sarà il ballottaggio. Per esempio Giannelli nella vignetta di prima pagina lo mette agghindato da mummia in un museo egizio in un sarcofago. Sarco, questo è il titolo della vignetta di Giannelli. E invece per Aldo Cazzullo Sarkozy non perde la sicurezza. Francesi, adesso unitevi a me. Certo, racconta Cazzullo, è la prima volta nella storia della Quinta Repubblica che un presidente in carica non arriva in testa al primo turno, eppure lui non ha perso un'oncia di aggressività, entra nell'arena con passo caracollante da cowboy, spalanca le braccia tipo cantante confidenziale davanti ai fan, gigioneggia e dice ora voglio 3 dibattiti con l'altro candidato. Prima erano in 9 contro 1, adesso siamo rimasti io e lui, finora mi ha evitato ma adesso ci dovemo ben incontrare, stesso giorno, stessa ora. Insomma, quest'aria da duellante Sarkozy non vuole perderla. Certo, sarà importante capire come voteranno, come si orienteranno coloro che hanno votato, e sono tanti, appunto, il 18,5-18,6% Marine Le Pen, vale a dire il Fronte Nazionale. Marine Le Pen fa un'intervista a Repubblica, pagina 3, nella quale dice: non dirò di votare alcuno dei due candidati, non dirò ai miei elettori come devono votare, i francesi sono grandi abbastanza per scegliere da soli in coscienza, posso solo dire che né Hollande né Sarkozy potranno risolvere i problemi che la Francia e l'Europa hanno davanti. Il titolo dell'intervista è Marine gusta il trionfo, ma non dirò ai miei chi dovranno scegliere, sta di fatto che sarà una platea di elettori francesi che hanno votato e probabilmente molti di loro andranno a rivotare al ballottaggio. Il risultato del primo turno, dice Marine Le Pen, dimostra che il nostro partito interessa sempre più i francesi. Riguardo a Sarkozy, dice, non ha più alcuna chance di vincere. In caso di sconfitta ci sarà una ricomposizione del paesaggio politico francese. Tutti questi politici hanno ingannato il popolo. Così Marine Le Pen, appunto dice Sarkozy è spacciato. Sta di fatto che però lei indica: non dirò ai miei elettori chi dovranno votare al secondo turno, quello decisivo. Ovviamente quando ci sono le elezioni in Francia tutto questo ha un riflesso anche in Italia, con commenti. Per esempio il Partito Democratico ovviamente esulta, dopo anni potrebbe essere la prima volta che la presidenza francese va a sinistra e ai socialisti, e dunque l'esultanza per il Partito Democratico. C'è da dire che, lo abbiamo sentito anche nel giornale radio, era ieri ospite di Lucia Annunziata, c'è stato anche un endorsement di Giulio Tremonti che ha detto: ha le mie stesse tesi dal punto di vista finanziario e dunque io voterei Hollande. Tanto che questo ha creato un po' di malumore, un po' di mal di pancia all'interno del Popolo della Libertà. Bersani festeggia, così titola pagina 6 il Corriere della Sera, ecco l'alternativa, ma consensi anche nel PDL, appunto con Tremonti che dice Hollande ha le mie stesse tesi. Il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani fa invece una vera e propria intervista su questo e non solo, anche sui riflessi italiani su Repubblica, intervistato da Goffredo De Marchis. Il titolo è Cambia il vento anche da noi, la vittoria socialista è un segno e anche Mario ne tenga conto, dice Bersani. Credo il voto francese, quello dei Land tedeschi e le prossime amministrative italiane possono segnare un mutamento delle opinioni, e se davvero gli equilibri verranno stravolti noi ci attrezziamo a prendere quel vento e a interpretarlo. E la domanda in chiave italiana è questa: significa che nel PD scatterà la tentazione di correre alle elezioni anticipate? No, risponde Bersani, ho dato la mia parola. La fedeltà al governo Monti fino alla fine della legislatura è fuori discussione, ma faremo la nostra parte nel solco di quello che abbiamo detto fin qui. La parola d'ordine è ricostruzione. Riguardo invece ai riflessi italiani, all'annuncio del Partito della Nazione di Casini e le novità annunciate dal Fano, dice Bersani: in quale democrazia del mondo la politica si imposta in questo modo? In nessuno. Noi abbiamo bisogno di formazioni politiche stabili, aperte, rinnovate, che organizzano le alternative, o pensiamo di inventarci ogni volta un film che ci porta a sbattere contro un muro? Un Bersani che poi dice anche Monti deve capire comunque che l'Europa sta cambiando e anche per il nostro paese si apre qualche spazio. I progressisti hanno una piattaforma concretissima firmata anche dai socialdemocratici tedeschi. Non è stato facile per questo accettare la mutualizzazione di una parte del debito e l'ok alla tassa sulle transazioni finanziarie. Anche per il nostro paese si apre qualche spazio, la possibilità di avere più voce in capitolo, e Monti è chiamato a far sentire questa voce. Mentre dal Popolo di centrodestra, insomma del PDL, c'è un'intervista che vi segnalo ad Antonio Martino, ex consigliere economico anche di molto vicino a Berlusconi, la trovate a pagina 6, lo ha intervistato Mattia Feltri, e Antonio Martino è durissimo nei confronti di Sarkozy, segno proprio che molti anche nel centrodestra in Italia non credono più e considerano sconfitto già il presidente uscente. Si è appiattito sulla Merkel, ci ha deluso tutti, questo è il titolo dell'intervista. Sentite Antonio Martino come parla di Sarkozy. In politica estera si è distinto per quella squallida avventura della guerra libica. In politica economica si è appoggiato sui diktat di Angela Merkel, cioè su una devastante politica recessiva che produce disoccupazione. Vi basta? Tanto che Mattia Feltri dice: professore, lei è molto severo. Vorrei ricordarvi e ricordare a Sarkozy che l'avvento di Hitler non è stato favorito dall'inflazione drammatica provocata dalla politica della Repubblica di Weimar, ma dalla disoccupazione di massa. Non credo che Sarkozy sarà rieletto, ma se dovesse succedere temo che contribuirà a creare le condizioni perché nei prossimi 2 o 3 anni in Europa esploda una recessione in confronto al quale quella del 29 parrà una bazzeccola. Una domenica di buon umore, professore. Mattia Feltri lo incalza così. Compatibilmente, risponde Antonio Martino, che comunque dice Sarkozy ha sbagliato tutto. Vabbè, questo è come le presidenziali francesi al primo turno hanno avuto anche riflessi, hanno riflessi sulle analisi della politica italiana. Venendo invece più strettamente in Italia, tiene banco sui giornali questa bella terminologia che dovrete imparare a conoscere, italiani, la spending review. Oh, così ci sentiamo più europei, più internazionali, la spending review, che poi tradotto in modo un po' più casereccio è: caro Stato, ti fai una bella dieta dimagrante e tagli qua e là degli sprechi clamorosi che tutti i giornali denunciano da anni? Ecco, spending review, la revisione della spesa. Tagliate un po'. Allora, siamo agli annunci, quindi prendeteli per quello che sono. Ma pare che tutto è in mano al ministro Pietro Giarda, a cui Monti ha affidato questa spending review, questa revisione della spesa. La spesa dei ministeri diminuirà di 13 miliardi di euro. Questo è l'annuncio a pagina 7 del Messaggero. Giarda, entro aprile nuove regole. Poi ci sarà una task force per i tagli. Le regole e poi la task force, cioè una commissione che si applicherà per capire come tagliare. In Italia i pessimisti fanno sempre notare che quando non si sa che cosa si può fare si nomina una bella commissione. Però sta di fatto che teniamo buono questo annuncio. Ricordatevelo, italiani, ricordatevi le cose, perché poi ve le dovete segnare e poi vedere se accadono. La spesa diminuirà di 13 miliardi. È pronto anche per il giornale il dossier Giarda. Lo Stato brucia 727 miliardi l'anno. Sia i tagli, pronto il dossier Giarda. Eccolo qui, Antonella Baccaro, sul Corriere della Sera, pagina 8 e 9. Dai restauri ai rimborsi, la mappa degli sprechi. Sono andati a spulciare le carte di tutti i ministeri, uno per uno, per individuare e quantificare i principali fattori che producono l'esplosione della spesa pubblica. Hanno cercato gli sprechi, quantificato i debiti pregressi, verificato i punti deboli, avviato programmi di miglioramento. Sono i nuclei di valutazione e analisi della spesa. Sono stati insediati presso ciascun dicastero alla fine del primo semestre 2011 e entro luglio dovranno predisporre i programmi per ridurre i costi e razionalizzarli. E allora il nucleo che ha operato sul Ministero del Lavoro ha affrontato il meccanismo del Fondo per l'Occupazione, la cui dotazione ammonta a 1,6 miliardi. Un lungo capitolo anche per gli esteri, presso il cui ministero il nucleo si è riunito 5 volte, 2 i problemi rilevati, le spese per il rimborso dei viaggi in congedo e le spese per il pagamento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti. Accidenti, cioè pagano a peso d'oro i rifiuti alla Farnesina. La pubblica istruzione, a fronte dell'accumulo di residui attivi anche precedenti al 2006 per circa 1,4 miliardi di euro, si ritrovano impegni presi e dunque residui passivi per circa 1 miliardo di euro per acquistare servizi di pulizia, il pagamento di contributi assistenziali e previdenziali e gli oneri fiscali. Al Ministero della Difesa, invece, l'attenzione del nucleo di valutazione si è soffermata sui debiti fuori bilancio formatisi negli esercizi finanziari 2009-2010. E così via via. Ogni dicastero ha avuto questo nucleo di valutazione che è andato a vedere. La parola chiave, ovviamente, del Corriere della Sera è spending review. Il ministro Cancellieri, ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, fa un'intervista o qualche dichiarazione al Corriere della Sera perché si era sparsa la voce che lei fosse un po' contraria a questi tagli. E allora a Marco Ascione racconta alcune cose, anche il fastidio Il mio piano per il Viminale, eccolo qui, tagliare un dipendente su 10. È infastidita la cancellieri, se sto addirittura pensando a ridurre il personale civile del Viminale, non so le voci che sono state messe in giro se nascano da ignoranza o malafede, ogni tanto mi tirano in mezzo come è accaduto anche sull'università o sulle carceri e che sono competenza di altri ministri. C'è un mio prefetto, per esempio, distaccato al ministro della giustizia, al Ministero della Giustizia con Paola Severino, ma è appunto distaccato, decide lei. Insomma, Anna Maria Cancellieri dice: c'è qualcuno che mi tira in mezzo, parlano, c'è malafede, ignoranza. Sta di fatto che ecco qui l'annuncio di Anna Maria Cancellieri: vorrei ridurre del 10% i dipendenti civili del ministero grazie a uno scivolo, un pensionamento anticipato, senza traumi. Dopodiché, invece di assumere una quota pari al 30% del personale, ne riassumeremmo solo il 10%, il resto dei soldi verrebbe accantonato. Io sono pronta e se il governo mi dà l'ok vado dai sindacati a discutere. E invece Repubblica dice che per quel che riguarda la spending review siamo pronti, a pagina 11, Roberto Petrini, basta voli di Stato e consulenze. Pare che Palazzo Chigi abbia già fatto partire questa revisione della spesa tagliando a 360 gradi sui voli di Stato per ministri e sottosegretari, di fatto non esistono più, una riduzione già stata del 90%, perché se autorizzi il decollo di un aereo di Stato ci devono essere circostanze logistiche veramente eccezionali, così ha spiegato il sottosegretario Antonio Catricalà. Chi taglia, sicuramente, chi ha già tagliato senza fare previsioni, nuclei di valutazione, commissioni, task force e ministri, sono le famiglie italiane. Loro non hanno avuto bisogno di task force, ma hanno avuto bisogno di guardare il conto alla fine del mese e dire: qua, caro figlio, cara moglie, caro marito, cara figlia, dobbiamo rinunciare a questo. Così la crisi ci ha cambiato la vita. Interessante oggi l'analisi del Sole 24 Ore che fa una mappa del disagio, la crisi degli italiani. Trovate tutto a pagina 3. Dai soldi alla casa, la mappa del disagio, cinema meno pieni, più spesa al discount, aumento delle vendite di auto a GPL con meno optional, crescita dei compro oro sono raddoppiati negli ultimi 2 anni. I dentisti low cost stanno avendo un successo incredibile, fino ad arrivare al forte aumento dei casi di pignoramenti immobiliari, purtroppo per le situazioni più difficili. Ecco le cause, gli effetti che finiscono talvolta per mischiarsi, ma alla fine quello tratteggiato in questa inchiesta del Sole 24 Ore è l'affresco di un'Italia che tra alti e bassi sta cercando di prendere le contromisure a una crisi che va avanti ormai da 5 anni. Allora, tutti i dettagli di come sui consumi, le banche, la spesa, le assicurazioni, i mutui, le cure mediche, tutto quello che la crisi ha comportato per le spese degli italiani. La trovate in questa interessante inchiesta del Sole 24 Ore. Insomma, le famiglie italiane la loro spending review l'hanno fatta, già. E senza neanche goderci molto. La politica italiana è tra inchieste ancora, un po' si trascina un po' noiosamente il dibattito all'interno della Lega, eccetera. L'articolo che vi segnalo più interessante oggi di politica è un articolo di Giuseppe Salvaggiulo a pagina 10 della Stampa, che analizza il movimento Beppe Grillo, come è organizzato. Con il movimento organizzato in franchising, il comico è unico titolare dell'uso del simbolo. È molto interessante come è la struttura nata da Gianroberto Casaleggio, manager Olivetti Telecom fino a una decina di anni fa, che poi ha messo in piedi il blog nel 2005 di Beppe Grillo, i meetup, rete di gruppi locali evoluti. Alla prima riunione erano in 15, ora ce ne sono 100.000 in 282 città, in 11 paesi, ce n'è uno perfino in Zambia. Come si finanzia il Movimento 5 Stelle, insomma è l'articolo più interessante, perché tanto si è detto, tanto si è parlato di Beppe Grillo e sui suoi 101 candidati sindaci, ma questo è un articolo interessante per capire come funziona il movimento. Che dire, devo chiudere? devo chiudere con lo sport, il calcio, vabbè, lo scudetto, come vi avevo detto ormai da un paio di mesi, era assegnato alla Juventus, e quindi complimenti, Juve d'Italia, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport di oggi. Ormai è, insomma, è un po', anche si trascinerà un finale un po' noioso per quel che mi riguarda, però devo dire che danno ampio risalto i giornali sportivi anche alla follia di Genova. La follia a Genova, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, sopra il titolo principale Juve d'Italia, per questa follia con i tifosi che hanno tenuto sotto scacco i giocatori del Genoa, costringendoli a togliere la maglia, e addirittura si pensava a fargli togliere i pantaloncini per farli rimanere in mutande. Davvero una follia, e il calcio italiano si dimostra ancora una volta per quello che è. 24 mattino. Siamo alle 8 e 21 minuti in diretta, cari ascoltatori. Allora, siamo qui, ben ritrovati ovviamente da Alessandro Milan. Che cosa succede? Che dovremmo avere ospite, saluto anche Oscar Giannino che è arrivato, vuoi entrare tu in diretta, Oscar? Perché qua abbiamo ospite il sindaco di Bosco Reale, Gennaro Langella, che però non è ospite, o meno 5 minuti fa ci ha risposto, adesso non ci risponde, forse ci risponderà. Vogliamo andare a Bosco Reale, in provincia di Napoli, perché è stato definito il comune dei fannulloni e il sindaco non ci risponde, ma mi dà un assist proprio perfetto, no? Perché viene definito così il comune dei fannulloni perché l'80% dei dipendenti comunali sono sotto indagine, alcuni, 41 addirittura, sono stati arrestati l'anno scorso in flagranza perché se ne andavano dovunque invece che stare in comune. E il sindaco ci risponde? Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Pensavo che fosse il fannullone anche lei, mi perdoni la battuta. Assolutamente no. No, io invece sveglio tutte le mattine alle 6 e lavoro allegramente. C'è solo un problema tecnico che abbiamo risolto fortunatamente. Benissimo. Senta, ma cos'è sta storia? L'80% dei dipendenti comunali è sotto indagine di vario tipo, per carità, qualcuno adesso lei ci dirà che hanno dei ritardi piccoli, eccetera. Però il dato di fatto lo contesta almeno, no? È questo. Assolutamente no, cioè, i dati di fatto sono dati di fatto, però da qui a dire che siamo un comune di fannulloni, questo lo contesto in maniera anche netta. Del resto, guardi, la mia amministrazione negli ultimi 4 anni ha ricevuto tutta una serie di premi per le attività svolte, dal premio, siamo addirittura in questo momento comune riciclone, quindi 2 anni fa avevamo il 3% di raccolta differenziata. Comune riciclone, cioè che avete... Sì, siamo oggi al 56 nel giro di 2 anni, abbiamo avuto un premio da parte del Presidente della Repubblica per le nostre attività legati, diciamo, ad attività legate alla legalità. E come possiamo il premio come comune innovatore. Sono tutti dati che non il premio, mi perdoni la battuta, non il premio produttività, forse almeno in comune, perché 80% di... Guardi, nelle contesto anche questo dato, secondo me sarà il 100%, non è l'80% che è coinvolto, perché il 20 che non c'era è solo perché non è stato messo sotto controllo. Se fosse stata messa sotto controllo sarebbero stati tutti indagati. Ma ancora di più, probabilmente questo è un fenomeno che è diffusissimo in Italia. Forse se proviamo a controllare anche in altre realtà pubbliche, i dati non saranno così discordanti. Cioè, mi sta dicendo che aveva ragione Brunetta quando diceva i fannulloni dei dipendenti pubblici. Guardi che noi siamo molto ascoltati dai dipendenti pubblici, molti si svegliano al mattino come lei alle 6 e fanno il loro lavoro, però lei dice che se controllasse in tutta Italia è un fenomeno dei dipendenti pubblici diffuso sicuramente. Però guardi, io le dico, ho costituito un comitato tecnico diciamo politico per cercare di capire per bene il fenomeno in tempi rapidi, cioè non nei tempi della magistratura o del numero di valutazione. E ad oggi, esaminando per bene nei dettagli la situazione, i veri fannulloni a Bosco Reale sono appena 8. Cioè chi ha abbandonato effettivamente il posto di lavoro per occuparsi di altre cose sono 8. Cioè lei ci sta dicendo, mi scusi, faccia capire, che se li avessero controllati sarebbero tutti. Adesso ci sta dicendo che i veri fannulloni sono 8. Sarebbero tutti coinvolti perché c'è un reato. Anche il ritardo di 5 minuti per la legge è un reato. Però chiaramente 5 minuti di ritardo non si può definire, a mio avviso, un fannullone rispetto a chi magari usando anche i mezzi del comune, insomma, va a fare la spesa. Cioè, otto sarebbero quelli beccati, gravi, gente che prendevano la macchina del comune, andavano a fare la spesa. Sì, cioè, ci sono situazioni diverse, otto sono i casi gravi. E che si fa di questi? Sono tutti dei ritardi che vanno da un minimo di 5 minuti, cioè la maggior parte da 5 minuti alla mezz'ora, e un altro contesto che forse cioè, è qualcosa in più della Ma lei, lei è diventato famoso, sindaco, perché aveva provato a mettere anche dei, dei rilevatori, delle impronte digitali per entrare... Entrare in comune. Pagati, tra l'altro. Installati in comune, però mai utilizzati. E perché? Mai utilizzati perché ci è arrivata una lettera da parte del garante della privacy che dice che questo tipo di rilevamento non è conforme alla normativa. Io non sono d'accordo, non riesco a capire il perché, però purtroppo è così e io mi devo attenere alla legge. Perché viola la privacy, non so. Secondo il garante, sì. Beh, l'impronta digitale sa un po' di polizia, l'impronta digitale, no? Sa quando dice... L'impronta digitale in realtà genera semplicemente un codice matematico che va riscontrato con il badge, quindi è semplicemente un rapporto tra il possessore del badge e dell'impronta, non viene conservato niente, quindi non vedo cosa ci sia di polizia, non è un modo per schedare. In ogni caso lei ha detto, avessero fatto queste cose, avessero utilizzato questo strumento... Non ci saremmo trovati in questa situazione, insomma, ad essere abitati come il comune peggiore d'Italia, non è così... E lo ribadisco in maniera forte. E tra l'altro, so che lei ha annunciato anche querela nei confronti dell'Espresso che ha fatto un servizio, però anche il Mattino titolava il comune dei fannulloni, cioè capisce che si presta un assist clamoroso, l'80% io sono un giornalista non professionista, ma un giornalista pubblicista, quindi conosco bene il mondo della stampa. È ovvio che c'è bisogno di titoli forti per poter attirare l'attenzione, lo capisco. Però se si entra poi nel merito, insomma, degli articoli, a parte l'Espresso, che ripeto, che io ho comprato venerdì alle 8:30, alle 9 ero già dal mio avvocato per presentare querela, perché effettivamente insomma, una persona che viene da Roma non ha mai visto il paese e nel giro di un'ora raccoglie una serie di notizie palesemente false, mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo perché posso dimostrare, e poi su questo non solo infangare i dipendenti comunali, ma infangare un'intera città è una cosa che non posso assolutamente consentire. Vabbè, ma questa ve la vedrete con l'Espresso. Ma questi otto che dobbiamo fare? Cioè lei cosa farebbe personalmente delle persone no, li cacciamo? L'ho annunciato pubblicamente, se ci sarà l'opportunità io posso arrivare tranquillamente fino al licenziamento, ovviamente nei casi più gravi previsti dalla legge. È ovvio che c'è una procedura penale in corso, insomma ci sono tutta una serie di procedimenti che vanno conclusi, perché fino a prova contraria, insomma fino alla sentenza finale c'è la presunzione di innocenza, ma arrivati alla fine non ho di nessuna difficoltà insomma ad adottare provvedimenti anche drastici, ripeto, per i casi più gravi. Ma si riuscirà a licenziare secondo lei in questa Italia, in questo paese? Io sono pure avvocato tra l'altro, quindi diciamo che è da vedere. La prendo come un no, usciranno bene da questa storia, qualcuno pagherà. Qualcuno pagherà, lei penso dice. Sì. Non saranno quel numero che insomma che dicono i giornali, però qualcuno pagherà. Non sarà l'80%. Vabbè, intanto la ringrazio, sindaco, insomma, per questi chiarimenti. Vedremo, giustamente lei difende il suo paese, dice non siamo il paese dei fannulloni, ecco. Alcuni ritardi minori. Grazie per essere stato con noi intanto. Gennaro Langella, il sindaco di Bosco Reale in provincia di Napoli. Noi dopo la pubblicità e il meteo parleremo di un libro che è uscito di Massimo Fini, intellettuale, scrittore, sarà il nostro ospite, lui è già stato varie volte, lo conoscete, amici di 24 Mattino. Ha scritto un libro intitolato La guerra democratica. La tesi di fondo di questo libro è: noi, Occidente, abbiamo fatto negli ultimi 20 anni varie guerre, non so, la guerra nel Golfo, la guerra in Libia, la guerra nei Balcani, giusto per ricordarne alcune, la guerra in Somalia, tutte presunte, finte guerre democratiche dietro le quali si cela invece la pretesa di intervenire in territori che non ci competono, la pretesa di imporre nostri valori che invece non dovrebbero essere imposti, e di democratico, ovviamente scritto tra virgolette, secondo l'autore Massimo Fini, non c'è nulla in questo tipo di atteggiamento, tutt'altro. 24 Mattino. Le 8:35 minuti, leggo dall'introduzione del libro La guerra democratica, edito da Chiare Lettere, che è l'ultimo libro di Massimo Fini. La guerra democratica, scritta tra virgolette, la guerra democratica, si fa ma non si dichiara, la si fa con cattiva coscienza chiamandola con altri nomi, operazione di polizia internazionale, peacekeeping o preferibilmente missione umanitaria. La guerra democratica utilizza quasi esclusivamente l'aviazione, bombardieri e caccia e sempre più spesso, soprattutto in Afghanistan dove non si riesce a piegare gli insorti, i droni, aerei senza equipaggio, armati di missili, teleguidati da 10.000 km di distanza. Nella guerra democratica, in buona misura materialmente, ma anche concettualmente, giuridicamente, uno solo può colpire, l'altro solo subire. L'Occidente democratico si arroga il diritto di dividere il mondo in buoni e cattivi, di intervenire come giustiziere della notte nelle guerre altrui, di imporre con la forza, la violenza, le bombe, i propri valori, perché si considera una cultura superiore. Bisogna ammettere con una certa amarezza che sconfitti i totalitarismi nazifascista e comunista, quello democratico non si è rivelato migliore, anzi forse un tantino peggio, perché bombarda, invade, occupa, uccide con la pretesa di farlo per il superiore bene delle sue vittime. Una sorta di santa inquisizione planetaria ed è questo l'intollerabile. Massimo Fini, buongiorno e buongiorno, ben ritrovato. Con lei a discutere di questo tema saluto anche il generale, senatore del Partito Democratico, il generale Mauro Del Vecchio, buongiorno e ben ritrovato anche lei. Buongiorno a lei e buongiorno a Massimo Fini. Tra l'altro autore anche di varie missioni internazionali, ha comandato per esempio la missione ISAF in Afghanistan per un certo periodo e quindi di queste tematiche può, è l'interlocutore giusto per discutere con Massimo Fini. Fini, la tesi di questo libro che lei ha scritto, La guerra democratica, insomma è molto molto forte, no? Se si capisce da questa introduzione, davvero siamo paradossalmente peggio, un tantino peggio dei regimi che abbiamo sconfitto, da cui proveniamo, quello nazifascista e quello comunista, perché imponiamo i nostri valori ovunque nel mondo? Beh, il totalitarismo c'è, forse non sarà, non raggiunge la protervia del nazifascismo, del comunismo, ma comunque le democrazie, diciamo, che una volta ha avuto le mani libere perché è crollato il contrattare sovietico, hanno inannellato 8 guerre, di cui a parte la prima guerra del Golfo, poi un conflitto del Golfo, 7 sono di aggressione, con varie motivazioni. È questa ipocrisia. Adesso la politica di potenza è sempre esistita, non sarò io a contestarla, però con le vecchie potenze, prima che ci fossero le superpotenze, queste quando volevano una cosa mandavano le cannoniere, se la pigliavano e buonanotte. Era una logica brutale basata sulla legge del più forte, ma ancora intellettualmente onesta in qualche modo. Qui quello che a me colpisce, quello che io chiamo l'intollerabile, è che si pretende di fare queste cose per il bene delle proprie vittime. Cioè ammantandole di un velo, lei dice, traduco io, ipocrita, di valori superiori, di esatto, bene comune, di anche di scontro di civiltà in alcuni casi. Poi cultura superiore è la declinazione moderna, poiché quella classica non è più presentabile perché c'è stato Hitler e il nazismo, del razzismo, insomma, è la declinazione moderna del razzismo. Però non ci sono dei valori, voglio dire, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, incontestabili e che devono essere ripristinati. Non voglio qui giustificare se con o meno con la forza o se con o meno con un intervento militare, ma dei valori inderogabili dai quali non bisogna di fronte ai quali non bisogna arretrare, che ma sono validi ovunque. Ogni valore nel momento in cui si pone come assoluto diventa perciò stesso totalitario. Non esistono valori assoluti, esistono culture, storie, popoli con tradizioni completamente diverse l'una dagli altri e ognuno ha diritto di autodeterminarsi diritto peraltro sancito solennemente a Helsinki nel 1975, il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Vediamo per esempio sull'Afghanistan, visto che poi il generale senatore Mauro Del Vecchio conosce non solo ma soprattutto quel settore, è stato operativo. Che cosa contesta lei nella guerra, che forse la guerra più, essendo la più attiva, è quella che guardiamo con maggiore attenzione di quell'intervento? Sì, è anche l'esempio più emblematico di quello che sto dicendo, cioè noi col pretesto di prendere un uomo che poi non abbiamo preso, abbiamo invaso, occupato un paese e ancora lo occupiamo dopo 11 anni e con la pretesa di portarvi la democrazia e altri e i nostri valori in un paese che ha una tradizione, storia, concezione della vita e della morte, dei legami familiari completamente diversi dalle nostre. Quella sull'Afghanistan è forse la peggiore delle violenze, anche perché l'Afghanistan, lei ricorderà, gli ascoltatori forse ricorderanno le grandi marce contro la guerra nel Vietnam americana. Qui invece perché c'era ancora l'Unione Sovietica e quindi le sinistre facevano queste marce. Gli afghani non hanno santi in paradiso, non sono comunisti, non sono liberali, non sono arabi, non sono cristiani, non sono ebrei e quindi se ne può fare carne di porco come se ne sta facendo, secondo me. Beh, interessante. Allora, senatore Del Vecchio, vuole contestare sia sul tema Afghanistan e più in generale, voglio dire, certo, facendo anche ricorso alla sua vita professionale da uomo del militare che ha partecipato a tante missioni, la tesi di Fini. Intanto premetto che io naturalmente ho la massima stima di Massimo Fini e condivido in altre circostanze molte sue idee. In questa occasione peraltro devo dissentire. Per la parte generale io vorrei soltanto ricordare che l'intervento in questo tipo di operazione molto spesso è sollecitato, anzi sempre sollecitato da grandi istituzioni. Così molto velocemente ricorderei che nei Balcani ci fu anche il Santo Padre che indusse la comunità internazionale ad intervenire in una situazione di grandi crisi umanitaria. E poi naturalmente tutte le organizzazioni altissime, l'ONU, l'Unione Europea, sono quelle organizzazioni da cui promanano queste iniziative. Per quanto riguarda invece per l'Afghanistan, devo purtroppo sottolineare come la memoria sia molto corta, non naturalmente, non mi riferisco a Massimo Fini, ci mancherebbe, ma in genere a tutta l'opinione pubblica. Io vorrei soltanto ricordare che nel 2001 noi vivevamo una situazione di terrorismo presente in molti paesi delle comunità internazionali, in Occidente come in Asia, e che praticamente l'intervento in Afghanistan aveva una motivazione ben chiara, quella di cercare di difendere. Sì, smantellare la rete di Al-Qaeda, assolutamente, giusto? Questo sì. Fu l'origine dell'intervento. Ecco, ma non era soltanto un'idea, erano dei fatti concreti che non solo si erano tradotti poi in quello che è accaduto negli Stati Uniti, ma anche in Spagna, in Inghilterra, in Germania e così via. Quindi evidentemente la ragione specifica dell'intervento era chiara. Io poi sono stato comandante di ISAF per la bellezza di 12 mesi, cioè ero responsabile operativo di tutta l'operazione, avevo le dipendenze naturalmente 40 contingenti diversi e non mi è mai sembrato che la nostra azione fosse impostata nel penalizzare la popolazione. Era era un'operazione naturalmente diretta a contrastare un tipo di terrorismo che era chiaro, evidente, latente, con tutte le difficoltà che questa operazione ha. Ma lei cosa risponde, generale, quando Massimo Fini nell'introduzione dice usiamo queste parole, peacekeeping, missione umanitaria, in realtà è una guerra vera e propria? Ma la guerra naturalmente dipende dalla reazione, l'organizzazione internazionale, in questo caso la Nazione Unita, l'ONU, che dispone praticamente lo sviluppo di un'operazione, lo fa perché cerca di superare una crisi. Quando le forze internazionali intervengono, il loro compito è soltanto quello di creare le premesse perché quella crisi che si è determinata possa essere superata. Poi incontrano delle reazioni, c'è l'Afghanistan, dove queste reazioni sono fortissime, dove l'organizzazione contrapposta è molto, molto incisiva. Ci sono altre situazioni in cui naturalmente il superamento della crisi si è svolto in maniera più semplice e più lineare e in tempi più ristretti. Allora, 800 24 00 24, sentiamo le informazioni sul traffico, poi c'è anche qualche ascoltatore, però ripartirò proprio da Massimo Fini. Questo effettivamente gli organismi internazionali nei quali tutto il mondo si riconosce, possono essere perfettibili eccetera, sono spesso gli organismi che legittimano questi interventi di operazioni internazionali. Allora, Massimo Fini, com'è questa storia? Dobbiamo anche criticare l'ONU, dobbiamo criticare tutti gli organismi internazionali che supportano questi interventi di peacekeeping? Scusi la brutalità, ma l'ONU va su e giù come la pelle dei coglioni, nel senso che quando c'è l'avallo dell'ONU, bene, c'è l'avallo dell'ONU, quando non c'è l'avallo dell'ONU la cosa si fa lo stesso. L'attacco alla Serbia per il Kosovo, 72 giorni di bombardamenti su una grande capitale europea come Belgrado, è stata fatta senza l'avallo dell'ONU. L'attacco all'Iraq è stato fatto senza l'avallo dell'ONU. Quindi quando serve l'ONU serve, e quando non dà il suo ok, le si fa lo stesso. In quanto all'Afghanistan, non si può pensare che una resistenza che dura da 11 anni non abbia l'appoggio di buona parte della popolazione. Sì, però sull'Afghanistan, a parte che la metafora di prima sull'ONU, voglio dire, era molto efficace. Sì. Sull'Afghanistan, il generale Del Vecchio effettivamente ricorda a lei e a tutti perché siamo intervenuti: per smantellare la rete di Al-Qaeda. Allora, indipendentemente dal fatto che adesso questa rete è stata in gran parte smantellata, e quindi uno può chiedersi che facciamo lì, lei condivide quell'intervento? Cioè dire, c'è in quel caso un valore superiore che è la difesa delle vite umane, delle persone che sono state colpite? No, perché da tutelare, e quindi no. Perché in realtà gli afghani e i talebani in quell'attentato non c'entravano assolutamente nulla. Quando c'è stato l'11 settembre, mentre tutte le folle arabe, voi ricorderete, scendevano in piazza, sì, festanti, il governo afghano talebano mandò un messaggio di cordoglio agli Stati Uniti, sì, dicendo che gli autori di questo misfatto non erano afghani, puniti. Beh, non c'entravano niente loro come governo, però avevano permesso alla rete di Al-Qaeda di insediarsi su un paese che loro avevano sotto il proprio controllo. Bin Laden non ce l'hanno portato i talebani in Afghanistan, ce l'ha portato il nobile Massoud, che qui in Europa gode di grandi simpatie, per combattere un altro signore della guerra che si chiama Hekmatyar. Sì, sì. Non solo, il governo talebano chiese un'inchiesta internazionale per appurare che fosse effettivamente Bin Laden alle spalle di quegli attentati, perché poi neanche questo vabbè, qui entra, quindi non legittimo neanche quell'intervento. Poniamo che avesse, secondo me la reazione in America è stata isterica. Comunque, poniamo che avesse c'erano 3.000 morti per un attentato terrificante, sì, sì, e che avesse un senso in quel momento. 11 anni dopo lo capiscono tutti che non ha più senso, che è diventato un'altra cosa. La stessa CIA, Pentagono, non li chiamano terroristi come faceva il ministro La Russa, chiamano insorti. Va bene, faccia sentire due ascoltatori, poi torniamo dal senatore Del Vecchio. Fulvio da Varese, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Dica. Intanto mi unisco ai suoi complimenti per la metafora di Fini, che veramente era estremamente efficace. Mi ha fatto fare una bella risata. E poi, no, sul tema della guerra, che invece è pesantissimo, io credo che non ci sia guerra che non venga fatta per motivi di convenienza. Quindi ammantarlo con i motivi di democrazia è semplicemente una scusa. Però ci sono tre diverse, io in queste ultime guerre, quelle che abbiamo davanti, ho tre diverse graduazioni. Una è quella della convenienza economica, e la possiamo riscontrare con Libia e Iraq, facilissimo col discorso del petrolio, dei contratti, sì, eccetera. Sì. Poi abbiamo il caso Afghanistan, dove secondo me i motivi sono forse, se andiamo a vedere quelli veri, quelli più giustificabili, tra virgolette, naturalmente, perché le guerre non è che siano mai positive, però se noi pensiamo che Afghanistan e anche Pakistan sono i maggiori paesi produttori di droga, forse il fatto che si vada lì e si faccia qualche cosa... Vabbè, non è però, sì, però la questione è che non è stata fatta una guerra dicendo andiamo lì per togliere la droga, e quindi sono poi le premesse che sono quelle che contano. Sentiamo ancora sempre le domande a Varese, credo. Gustavo, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, dica. Allora, la cosa è molto semplice. Le guerre trovano sempre meno sostentamento, giustificazione. Voi state cercando giustificazione alle guerre che facciamo noi occidentali in altri luoghi del mondo. Bene, signori, noi siamo decadenti, noi siamo decaduti. Le nostre democrazie non hanno al loro interno e al loro esterno più una credibilità. Noi siamo sempre alla ricerca di una giustificazione. Signori, il nostro è l'unico modello che è sopravvissuto in questo mondo. Quindi, in una selezione naturale e naturale che sia, noi siamo il futuro del pianeta. Ora, o accettiamo... Ma che vuol dire noi chi? Noi occidentali. Ah, noi occidentali. E che facciamo? E gli altri li annientiamo? Allora, accettiamo che in Afghanistan i talebani governino e facciano quello che vogliono, che in Iran si raggiunga una possibilità di una guerra nucleare dove c'è un leader iraniano che ha detto che vuole distruggere dei paesi. Sì? Distruggere. Dei paesi, Israele soprattutto. Dei paesi, oppure Israele. Della Corea del Nord, vogliamo parlare della Corea. Allora, se non li fermiamo noi, questi signori non li ferma nessuno. E allora, quindi, secondo lei è legittimo? È legittimo farlo? Questo vorrei capire. È utile. Una difesa a cui noi non possiamo sottrarre. Ma guardi che lei non si discosta molto dalle idee di Fini, solo che Fini dice questo è il motivo per criticare questi interventi. Lei invece molto, in maniera molto utilitaristica, e vorrei girare questa considerazione al generale Del Vecchio, che forse inorridirà dalla visione di Gustavo da Varese, in maniera utilitaristica dice no, è utile, bisogna farlo, bisogna fermare, bisogna anche arrogarsi il diritto di dire quelle persone vanno fermate, generale. Io devo dire, la ringrazio per avermi coinvolto, che non è certamente questo lo spirito con il quale la comunità internazionale interviene in questo tipo di operazioni. Ci sono delle motivazioni forti, chiare, che si riallacciano sempre a ragioni ben individuabili, ragioni umanitarie in alcune circostanze, ragioni di sicurezza. Abbiamo parlato dell'Afghanistan, ma potremmo parlare anche del Mediterraneo in cui noi ci troviamo, la salvaguardia degli interessi nazionali, per esempio il controllo delle rotte navali nel Golfo e così via. E poi c'è una esigenza di gestione e del superamento delle crisi che sono potenzialmente pericolose, ma attraverso una condivisione degli obiettivi. Ecco la validità dell'approccio multilaterale, ecco la validità della presenza di organizzazioni internazionali che danno legittimazione a questi interventi. Non è l'iniziativa del singolo paese, non è la volontà del singolo paese di portare democrazia in un'area piuttosto che l'altra. È una decisione che naturalmente nasce dall'insieme di decisioni di paesi che naturalmente hanno delle responsabilità e che impone naturalmente delle azioni che evidentemente qualcuno non farebbe. Io che sono un militare naturalmente so perfettamente che cosa vuol dire la guerra, e quindi evidentemente sono l'ultimo a pretendere o a cercare una tale soluzione, evidentemente. Sì. No, certo, però dice in alcune occasioni, soprattutto se legittimate dagli organismi internazionali, sono ipotizzabili e valide. Io in ogni caso qui mi devo fermare, vi invito se volete alla lettura, ad approfondire il libro di Massimo Fini, La guerra democratica, edito da Chiare Lettere, lo trovate ovviamente in libreria. Ringrazio l'autore Massimo Fini, così come ringrazio il senatore del Partito Democratico e generale Mauro Del Vecchio per essere stati con noi. Mi trovate su Twitter @AlinoMilan, sono io @24Mattino è la trasmissione, e ci troviamo domani.